1955 era già fondata, però è la Iosto Turretana. Dopo, secondariamente, è nata la Turretana, ma siamo già a Turretana, siamo da buoi tant'anni, compresa. Ma era la Iosto Turretana, compagis, che avete visto in fotografia. No, non è la Iosto, sicuramente, compà. È la Iosto Turretana, non può essere. La Turri si era molto dopo. Sì. Perché non sono quelle dopo, la più vecchia qua. Forse la più vecchia, non so, ma no, per dare un passaggio di parole, non ci ho compreso, Durresi, non ho capito cosa mi ha detto, compà. Tu pensi di dire, vabbè, la sappiamo già che la più vecchia che viene, la mia sottolettana, poi arriva, la Durris, la Durris. È nata dopo, compà. La Turris è nata dopo, compà. La Turris è nata dopo tra il Porto Torres, tra la Iosta Turretana e il Porto Torres, e dopo si è inserita la Turris in mezzo, capito? La Turris dei Menghini, la Turris degli Andolfi, la Turris non sa con niente, compà, che conosci, dei Giacconi, la Turris dei De Logu, la Turris mi prende la Dremoleta, pure a Favellani, Dremoleta nel senso che siamo tornati con l'anno, compà, da Reto, di gente che dei Caponi, te la mette Capone, che tu, di Coppolecchia, tutta essa gente, di dettori, un sacco di gente, compà, che tu lo sai, che hai vissuto il suo periodo, come ti ha già visto Dio, quindi le conosciamo tutte, cara, giustamente, e tutta quella gente, però era il mezzo tra la Iosta Turretana e la Iosta Turretana e il Porto Torres, la via di mezzo alla Turres. Va bene, ti ringrazio, papà. Beh, le pizzine, la tela com'è? Domani a Manzano va, c'è l'accompagnato il moglie, domani a Manzano lo recupero. Domani mattina c'è il recupero a Sassari, domani mattina, ho preso compà, quindi prepara la roba, tutto, poi quindi tutta la chieta, non so cosa la desina di Ringhivi, a Sassari. E da voi rotto, l'otto c'è la visita a Sassari, il rizzetto della visita sbagliata di questi signori qua. Opa, da voi. Vediamo poi cosa ne esce a pizzo, adesso che ti dice. Mi ha fatto la prima, allora a me non me la metti a io. Non te la metti tu, compà, oh, yeah. non ce la mettiamo con parte, tanto io abbiamo con parte, purtroppo compare, se la mettiamo delle cose verde e delle cose male, ma comunque pensiamo sempre positivo. Va bene compare, dai, in questi giorni ci vediamo che so abbastanza più libero e quindi di conseguenza ci sentiamo, dai, sono da Donatella con Mario e Bezzini. Ciao compa, ciao. Ciao, ci sentiamo. Grazie per i saluti. Sono da Padrino. Ciao. Ah, venerdì, ciao, ciao.